Tra poco ai nostri microfoni Sonia Mitralis, giunta pochissimo fa in territorio italico. Sonia Mitralis che arriva dalla Grecia, qui in Italia, per presentare la campagna di solidarietà con le donne greche organizzate da Donne nella Crisi. Una campagna di solidarietà che va a toccare soprattutto le problematiche riguardanti i tagli alla sanità greca, ormai le condizioni per partorire, abortire e per insomma poter avere le prestazioni mediche un tempo pubbliche, quindi gratuite. Insomma, oggi la situazione è sempre più complicata e arrivano addirittura notizie di donne che sono costrette a partorire negli ingressi degli ospedali perché non vengono accettate dai pronto soccorsi, proprio perché richiedono il pagamento della prestazione sanitaria. Con toda palabra. Ed eccola Sonia Mitralis in diretta sulle libere frequenze di Blackout. Sonia, allo? Allora, salutiamo Sonia Mitralis, greca, che è membro dell'iniziativa delle donne contro il debito e le misure di austerità, che è appena arrivata in Italia da poco. Tu è in Italia per che ragione? Je suis venue en Italie pour faire une tournée féministe pour construire un réseau de solidarité avec les femmes italiennes et les femmes grecques. Certo. E quindi appunto è in Italia proprio per dare il suo contributo a costruire questo réseau, questa rete di solidarietà tra le donne italiane e le donne greche, anche perché sono due paesi piuttosto accomunati dalla crisi in questo momento. Sì, Sonia, volevamo chiederti, quindi chiediamo a Sonia in particolare, quanto e come è cambiata la condizione soprattutto delle donne greche al tempo della crisi e in special modo per quanto riguarda la soppressione, l'erosione dei servizi sociali e insomma sanitari, e per tutto ciò che concerne in particolare la vita delle donne, dall'aborto alla maternità, il sostegno di maternità e i medicinali. Allora Sonia, la première question est combien et comment est-elle changée la condition notamment des femmes grecques au temps de la crise et au niveau de la suppression des services sociaux et de la sécurité sociale, l'avortement, la maternité, le soutien à la maternité, le congé de maternité, le droit aux médicaments, etc. Mais pour dire la vérité, nous les femmes grecques, on est actuellement dans une situation de régression historique qu'on ne pouvait pas imaginer il y a encore 3 ans. Au moins de 3 ans, il y a la démolition complète de l'état social, il y a le retour en masse des femmes au foyer. Mais quand on dit retour au foyer, actuellement les maisons qui n'ont pas de chauffage, parce que les gens sont tellement pauvres qu'ils ne réussissent pas à payer leur chauffage, ils ont en gros pas d'eau, parce que très souvent il y a les coupures d'eau, et ils n'ont plus assez à manger. Pour les femmes, par exemple, elles perdent leur travail. Avant la crise, il y avait 12% de chômage. Actuellement, il y a déjà 30%. Et pour les jeunes femmes, celles qui travaillaient en masse dans l'état social, c'est celles-là qui n'ont plus de futur professionnel du tout. Et leur chômage pour les jeunes femmes s'élève déjà à 68%. 60, hein? 68%. Ok, un moment, s'il vous plaît. Sì, lei parla, molto, è molto chiaro questa risposta, parla di un regresso storico per le donne greche che si verifica appunto da quando in Grecia c'è la crisi, e parla del fatto che nel giro di pochissimi anni si sta assistendo ad una vera e propria distruzione completa di tutte le conquiste delle donne, anche in termini di stato sociale, e di un ritorno, bella questa espressione anche se tragica, o foyer, no? Quindi insomma una regressione, un ritorno nel privato, nella dimensione domestica delle donne. Parla di una povertà in crescente aumento che ovviamente colpisce maggiormente le donne degli uomini, e di un aumento vertiginoso della disoccupazione. Sì, sì, le difficoltà arrivano soprattutto per il fatto che appunto si perde il lavoro, quindi non si hanno più soldi per pagare gli affitti, quindi si perdono le case, non si hanno più i soldi per arrivare alla fine del mese, quindi non si hanno nemmeno più i soldi per comprarsi da mangiare. E questo sembra accomunare tutte le donne, quasi tutte quelle che abbiamo sentito oggi, no? Che vengano dalla Palestina o dalla Grecia in declinazioni diverse. Mi sembra che il minimo comune denominatore di queste storie è che nei momenti di emergenza o di crisi le donne sono le prime a patirne in forme specifiche, attraverso ad esempio l'espulsione dal mercato del lavoro. Mi colpisce questa corrispondenza tra il dato della disoccupazione in aumento in Grecia, soprattutto quella femminile, e in Palestina, no? Sì, sì, sì, esatto. Ok, e puisque on peut dire che la crise limite fortement l'autonomie des femmes grecques. Je n'ai pas compris. Et la crise donc a limité l'autonomie des femmes grecques. Oui, elle commence à vivre dans une dépendance complète, d'autant plus que les pensions sont diminuées et que les jeunes femmes n'auront jamais de pension. Si. Que en général, le revenu est diminué de 50 à 70%. C'est des chiffres inimaginables encore ici, je suppose, et que au moment où ce qu'il n'y a plus de crèche, on n'a plus de sécurité sociale, quand il y a par famille très souvent de 5 individus un seul salaire pour faire vivre tout le monde, vous comprenez que les femmes, d'abord c'est elles qui sont appelées à remplacer l'état social détruit, et c'est elles maintenant avec leur travail gratuit qui doivent fournir tout ce que a détruit l'état social, tous les services qui ne sont plus disponibles pour les familles, pour les femmes. Et si. Vous savez, ce qui est terrible, c'est qu'au fait, cet argent qui est épargné, et ça fait des milliards et des milliards, sont destinés à payer la dette directement. Donc l'État remplace par le travail gratuit tout cet argent qui va directement au paiement de la dette et aux banques. Bene, sì. Sì, continua appunto a dipingere un quadro dalle tinte molto fosche. Si parla appunto non solo di perdita di autonomia da parte delle donne greche, ma di una dipendenza ormai completa e totale. Forse per questo che appunto la compagna Sonia parlava appunto di una, all'inizio, nella prima risposta, di un regresso storico delle donne greche, delle loro conquiste. Quindi dipendenza completa, tanto più che le pensioni si sono fortemente diminuite, e le giovani donne, ma questo è un altro dato che c'è comune in Italia, di pensione non ne avranno mai neanche una, no? E quindi la distruzione completa della sicurezza sociale, che è proprio la sanità pubblica, che aggrava questa condizione a fronte di una situazione in cui la Grecia è stretta nella morsa dell'Europa ed è costretta a pagare miliardi e miliardi per il debito, e certamente non può finanziare il servizio pubblico. Non solo, finita la sicurezza sociale, finita la sanità pubblica, le donne tornano a casa ad occuparsi, svolgendo gratuitamente quei servizi che fino a poco tempo fa era lo Stato pubblicamente a svolgere. Anche questo, ritorno al lavoro di cura, qualcosa di molto amaro che però ben conosciamo perché fa parte delle nostre analisi. Sì, è singolare che insomma questo arrivi in Grecia per una crisi, quindi le donne richiamate a rimpiazzare lo stato sociale, a rimpiazzare i servizi, a rimpiazzare il welfare, a lavorare gratuitamente, grazie a quel lavoro gratuito poi che lo Stato greco riesce a restituire tutti quei miliardi alle banche e al Fondo Monetario Internazionale. Curioso, drammatico che in Grecia arrivi nel bel mezzo di una crisi. Qua in Italia abbiamo avuto il libro bianco di Sacconi che invece programmava direttamente questo stato di cose all'interno di Antelitteram. Esatto, interno di un progetto di legge che avrebbe voluto, se il governo Berlusconi fosse continuato, a attuare qua in Italia. Ok, e donc Sonia, la troisième question et la dernière question. Et quelles sont les actions qui vous êtes en train de préparer dans votre réseau? Oui, nous voulons travailler avec les femmes italiennes, mais aussi avec les femmes européennes, pour construire un large mouvement de femmes européennes. Parce que la crise grecque va bientôt être le sort de nous toutes en Europe. Oui, c'est pour ça oui. que c'est très important qu'il y a aussi un mouvement ici des femmes italiennes pour leur propre destin. Et je crois qu'en nous aidant, elles s'aident aussi elles-mêmes. Ce que nous on veut faire, c'est d'organiser la solidarité très concrète avec les femmes grecques. Par exemple, il y a des structures autogérées, des cliniques qui donnent des soins aux 3 millions de gens qui sont sans couverture de maladie. Excusez-moi, 3 millions ? 3 millions déjà. Ah. Et chaque jour qui passe, il y en a de plus en plus. 3 millions. Oui, je comprends. Allora, lei dice appunto che si tratta qui di costruire delle azioni di solidarietà molto concrete, ma ciò che è più interessante è da inserire all'interno della creazione di un movimento di donne transeuropeo, appunto, che coinvolga tutte le donne europee. E quindi un lavoro importante da fare perché, dice Sonia, la crisi della Grecia, della donne greche, va ad essere la sorte di tutte noi e quindi bisogna prendere in mano questo destino, occuparsene concretamente attraverso azioni di solidarietà concreta. E ci piace concludere questo contributo con un bel esempio, no? malgrado la crisi, un bel esempio di autogestione. Lei ha parlato di strutture autogestite che cercano di in qualche modo supportare questi 3 milioni di persone che in questo momento non sanno più dove andare a sbattere la testa perché non hanno né da mangiare né insomma di che curarsi, ma appunto l'autogestione come risorsa importante appunto per uscire dalla stretta del capitalismo globale finanziario. No, stavo pensando magari se fare a Sonia, però traduci tu che sei più brava, una domanda su Alba Dorata, visto che ne parlavamo giusto questa mattina nella presentazione del dossier Antifa, di chiedere insomma a Sonia rispetto alle organizzazioni della nuova destra radicale che situazione c'è, perché sembrano molto radicate sul territorio con un lavoro insomma di assistenza e di solidarietà sociale molto forte. Oui Sonia, encore une question à propos de la situation et l'enracinement dans les niveaux sociaux des organisations de la nouvelle droite sociale en Grèce, Obdoré, mais aussi des autres. Et comment est-elle la situation? Oui, d'une part, on a un retour à un terrorisme vraiment de la part de la Troïka intérieure, c'est-à-dire du gouvernement qui est en ce moment au pouvoir. Il vient hier d'occuper tout un village dans le nord de Grèce parce qu'ils veulent réouvrir les mines d'or et polluer toute la région. Et la police est entrée dans le village et a fait des entrées à l'école et même dans les maisons, a fait des arrestations. On est vraiment, c'est comme des SS, il n'y a plus aucune démocratie. D'autre part, ce genre de politique fait aussi que une banalisation de la violence, de la politique est devenue une vraie culture quotidienne. Et l'extrême droite, et c'est pas une extrême droite comme en France par exemple, mais c'est une droite néo-nazie, et ils ont déjà plus que 12%. Ils sont très organisés, ils ont des troupes de choc et ils tuent chaque jour des immigrés. Et pas seulement des immigrés, ils font aussi des attaques à tout ce qui est mouvement et collectif, à la gauche aussi, aux syndicalistes, aux politiques de gauche, aux homosexuels, etc. Donc une situation de réel terrorisme de droite. Oui, oui, c'est vraiment la violence absolue. Absolue. Et ils sont assez couverts par le gouvernement. En toute impunité, ils tuent. Et ça devient une banalisation de la violence. Et c'est comme s'ils voulaient montrer aux gens qu'ils sont violents. Et très souvent, c'est à cause de cette violence qu'ils ont même de la part de la société une approbation, ce qui est très très dangereux. Ok, allora appunto ci diceva che c'è una situazione di vero e proprio terrorismo in Grecia in questo momento, la popolazione è terrorizzata non solo, cioè certamente da questa organizzazione di estrema destra di cui appunto parliamo tra poco, traducendo quello che ha detto Sonia, ma in particolare parlava di manifestazioni nel nord della Grecia, in particolare di un villaggio nel nord della Grecia che in seguito... Sì, che è stato occupato interamente dalla polizia, che è entrata a casa per casa, è entrata a scuola, ha fatto tantissimi arresti, il tutto perché pretendevano insomma di riaprire le miniere d'oro, sì, della quasi zona. Una situazione da golpe, no? Esatto. Quindi da una parte il terrorismo della troica, certo, appunto arriva ad arrestare la gente casa per casa, dall'altra parte un terrorismo e una violenza assolutamente impuniti e coperti dal governo greco, appunto per mano di queste organizzazioni del neonazi, lei diceva, non è una destra come quella francese, certo, eccetera, ma è proprio una destra estrema neonazi, sono assolutamente molto organizzati e fanno attacchi di ogni tipo contro qualunque cosa si muova a sinistra, secondo loro, quindi sì, movimento, collettivi, sindacati e poi naturalmente omosessuali, a tutte le differenze, migrati. Certo, certo, è una destra che in questo momento neonazista, lo ripetiamo, raccoglie almeno il 12% dei consensi, ci diceva Sonia, ed è assolutamente coperta dal governo, quindi una situazione esplosiva. Bene, noi andiamo a ringraziare tantissimo Sonia per il suo tempo, l'abbiamo, come dire, agganciata appena scesa dall'aereo, quindi è stata molto gentile. Ricordiamo che è membro dell'iniziativa delle donne contro l'indebitamento e le misure di austerità, e qui in Italia per creare una rete transeuropea che raccolga la solidarietà concreta di tutte le donne degli stati europei, proprio perché bisogna reagire a questa crisi auto-organizzandosi, magari come appunto hanno fatto in queste belle esperienze di autogestione di cui ci ha parlato, e speriamo di risentirla presto. Bien, Sonia, merci beaucoup à toi et à bientôt. À bientôt, j'espère. Bonne chance avec votre réseau. Bonne chance. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Revoir.